raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Tre civette sul comò, rubrica di varie cose sulle donne. Questa sera, chi tiene in mano lo specchio e per chi? Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my... Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'ultima puntata per quest'anno 2013 de Tre Civette sul Comò. Questa sera parleremo di biografie di donne e scrittrici, un tema complesso, molto affascinante, in cui la ricerca documentaria sulla vita di un autore, lungi dall'essere accademica e distaccata ricerca, finisce per smuovere, lo vedremo, insospettabili fantasmi ben nascosti nell'ombra. Aveva un bel dire e tuonare infatti Marcel Proust nel Contre Sainte-Beuve sui rischi della lettura biografica dell'opera letteraria e della biografia d'artista in genere. Ad onta di ogni asettica divisione fra vita e opera, non c'è niente di più deliziosamente eccitante del viaggiare con la mente nelle vite delle nostre autrici preferite, donne verso cui il nostro amore letterario cresce e si esalta tanto più la privata biografia si avvicina al nostro sentire. Nella storia si trova conforto, ha scritto la storica americana Beverly Gage, perché si scopre che altre volte la gente ha creduto che fosse giunta la fine e invece ha ritrovato la forza e la speranza di vivere. Inutile nascondere un certo orgoglio o addirittura un inconfessabile sollievo nello scoprire che quell'artista o quel personaggio nelle cui opere e parole tanto ci ritroviamo hanno vissuto vite di donne simili alle nostre, con tutti gli stravolgimenti, i batticuori, le gioie e le sofferenze del caso. Strano genere perciò, quello biografico, all'incrocio fra storia, memoria e letteratura, dietro paludate apparenze storiografiche nasconde un inconfessato gioco a tre, un rimpiattino fra biografo, lettore e personaggio biografato. In Italia la biografia non è un genere di ampia diffusione, a dir la verità, e la relativa povertà di titoli nelle librerie ne la prova. Prova rinforzata dal fatto che si tratta spesso di traduzioni, dolorosamente e arbitrariamente random, rispetto ad una produzione straniera, specie inglese e francese, addirittura esorbitante. Tuttavia, che abbiate la possibilità di leggere in lingua o che abbiate avuto la pazienza di spulciare cataloghi e fondi di libreria, scegliete e godete, sapendo che nello scegliere una biografia della nostra scrittrice o artista preferita, sottoscriviamo un patto col demonio. Guardiamo un ritratto altrui, ma vi cerchiamo uno specchio e nello specchio troveremo non solo il nostro riflesso, ma anche quello del biografo o della biografa. È un punto importante questo. Perché spesso le biografie finiscono per dirci qualcosa del soggetto, ma molto anche dello studioso o della studiosa che vi si sono avvicinati con tutto il suo carico di vissuto, di giudizi e di pregiudizi. Giudizi e pregiudizi che, stranamente, quando si parla di donne, assumono sfumature tutte particolari. E non è un problema di piccolo conto. Per decenni il nostro approccio alla vita di Virginia Woolf è stato pesantemente influenzato dalla biografia scritta dal nipote Quentin Bell, figlio della sorella Vanessa, una biografia peraltro recentemente riedita dalla Tartaruga col titolo di Virginia Woolf, mia zia, un titolo un po' così. Ecco, non vogliamo dire che Bell abbia forzato l'interpretazione della biografa dell'illustre Ava, ma certo, ad onta del tanto vantato anticonformismo bloomsburiano, ci ha a lungo condizionati col suo voler normalizzare una persona francamente non normalizzabile come Virginia. Solo col tempo abbiamo imparato a non vedere in Leonard Woolf solo l'amorevole sposo ed infermiere infaticabile senza il quale Virginia non avrebbe scritto neanche l'elenco della spesa, e solo a posteriori possiamo valutare quanto l'amore e il sostegno di sorella, amiche ed amanti fosse sostanziale per lei e non solo accessorio. Allo stesso tempo abbiamo imparato da non moltissimo a sganciare un certo determinismo insito nella lettura critica che dei suoi scritti, di Virginia, veniva proposta. Moon. Vi solletica questo argomento? Prendiamo due scrittrici, entrambe francesi, che godono di un grande successo di studi e saggistica, le cui vite complesse hanno fatto la gioia di centinaia di studiosi e devoti esegeti, Colette e Marguerite Yourcenar. Si tratta di due donne dalla personalità dir poco spiccata, non casualmente, donne che nel bene e nel male hanno fatto dell'estremizzazione e dell'azzardo uno stile di vita. Donne capaci di sperimentare ad oltranza contro tutte le convenzioni e di produrre, a partire da un esperire diverso, pagine di una classicità e di una universalità di cui i francesi sanno farsene carico e gloria con abilità tutta specifica. Ci occuperemo di loro anche perché, a differenza di altre autrici, di queste due gran signore della letteratura del Novecento abbiamo per fortuita coincidenza un certo numero di biografie tradotte in italiano e ristampate nel tempo, segno anche questo del loro peso in termini culturali ed editoriali. Prendiamo allora Colette. Quella gran brava ragazza provinciale scandalosa, scrittrice in incognito di bestseller scollacciati, Le Claudine, la serie delle Claudine, poi di elegiache pagine sulla natura e sull'infanzia, madre distratta e priva di qualsiasi sentimentalismo, spietata descrittrice del brutto dell'amore, innamorata sempre tuttavia e disposta a dimostrare sulla sua pelle che le donne che amano sopravvivono a tutto e possono anche godersi la vita con tre mariti, alcuni amanti ambo sessi, una figlia ribelle e numerose splendide amicizie. Bene, che cosa provoca questa figura travolgente? Agli uomini evidentemente l'orticaria. Come giustificare altrimenti le biografie di Herbert Lotman e della coppia Claude Pichois e Alain Brunet? Prendiamo il volume di Lotman, edito la prima volta da Rizzoli nel 1991. L'asfittico signore dal sorriso agrumoso della quarta di copertina ha dei grossi problemi con Colette. Come dire, gli sta antipatica, non riesce a capirla, ne diffida e tuttavia, per qualche motivo, si è impegnato a scriverne la biografia, magari ha mosso Marie Monti per farlo, e comunque si ritiene un esperto di cose francesi, e cosa c'è di più francese di Colette? E insomma, questo lavoro sa da fare. Ma posto di fronte a quel cactus spinoso che sono le scelte di vita spesso misteriose, se non contraddittorie o addirittura discutibili, di Colette, ciò che riesce a fare è solo buttare lì qualche dato, azzardare mezza supposizione e tirare oltre di gran carriera. Il risultato? 414 pagine tutte di corsa, un po' come quei ciceroni che riescono a farti fare il giro del Louvre in 45 minuti. Colette rimane là, più immota e misteriosa della Sfinge. A chi non piacerebbe? A qualsiasi, risponde sempre una certa mia amica. Non si può dire invece che Pichois e Brunet, autori di una biografia pubblicata da Bollati Boringhieri la prima volta nel 2000, siano andati di corsa. Anzi, si deve ammettere che hanno prodotto una delle più dettagliate e argomentate biografie che esistano in assoluto su Colette o, se è per questo, su qualsiasi altro essere umano. In questo si sono rivelati addirittura maniacali, andando a ricercare con acrimonia documenti e testimonianze anche sul più minimo fatto. Un'impresa titanica. Occorre peraltro ricordare che Claude Pichois è uno dei maggiori esperti oggi viventi sull'ineffabile borgognona, autore di saggi da cui non è possibile prescindere. Tuttavia, ad una lettura meditata del poderoso tomo, 526 pagine scritte fitte, si ha l'impressione che tanta foga sia dovuta al tentativo di far stare ferma il più possibile Colette sotto lo spillone dei dati di fatti, al solo fine di colpirla meglio. Altrimenti, come giustificare lo straordinario gioco in cui si esibiscono ogni qualvolta possibile? Dei molti nodi oscuri della vita e delle scelte colettiane è possibile dare diverse interpretazioni e spiegazioni, sì, ma perché loro, dopo averle coscientemente tutte ed una per una enumerate, scelgono sempre la più infamante? Perché usciamo da questa lettura, peraltro avvincente e mai fiacca, sia chiaro, perché usciamo da questa lettura dunque sospettando, scusate, che Colette fosse una gran bastarda? D'altra parte, nella premessa, a pagina 8, sono gli stessi autori a dichiarare che la loro è una, virgolette, biografia critica, ove quindi, se si è ben capito, critica non sta tanto o non solo per filologicamente accertata, quanto nel suo senso di criticare per pensare il peggio e nella stessa pagina non accusano forse Colette di essere un vampiro di energia altrui pari, guarda caso, sulla Marcel Proust? Diverso atteggiamento riflettono altre due biografie. La Colette di Michel Sardes, edita la prima volta da Bompiani nel 1981, riflette sicuramente il periodo, oltre la metà degli anni 70, in cui fu scritta e pubblicata in edizione originale. Periodo sicuramente di tormentata riflessione sul sociale e sullo specifico femminile, che ha influito pesantemente sulla lettura di una vita vissuta in un diverso momento storico. Si tratta innanzitutto di un testo dalla scrittura particolarmente ricca e appagante, anche in traduzione. Nel sottotitolo, Una vita libera e condizionata, si delinea già lo schema interpretativo attraverso cui Sardes fa passare l'analisi dei fatti, letti come un'epica lotta fra le costrizioni sociali e psicologiche subite da Colette in quanto donna a cavallo fra 800 e 900 e la libera esplorazione delle proprie pulsioni e aspettative reali. Niente da eccepire in un libro appassionato e scrupolosamente documentato, se non un qualche sospetto di tono vittimistico qua e là, e soprattutto la pesante pregiudiziale che impone a Colette un eterno confronto con l'immensa, onnipotente Sidot, la madre della scrittrice, cui dono volentieri la maiuscola, perché nel testo finisce per assumere l'immagine di un'arcaica, crudele e fascinatrice cibele. Sidot è la madre. È vero che Sidot, dopo la sua morte, fu oggetto da parte di Colette di un'intensa riflessione culminata in un lavoro di riscrittura del loro rapporto trasformato in leggenda. Ma si ha l'impressione che Sardes, volendo rivendicare alla sua eroina una sua specificità femminile come soggetto attivo di una lotta di liberazione ed emancipazione, finisca, paradossalmente, per tarparne le ali, per incalanarle le straripanti energie in uno schema esistenziale basato solo sul rapporto madre-figlia, riducendo insomma la portata di un progetto di vita quanto mai creativo. Questa donna bambina che salva se stessa, trovando nella propria interiorità ed esperienza un modo per farsi madre protettrice di te, sa un po' troppo di Robin Norwood e, proprio come le opere della psicoterapeuta americana, fa venir voglia di aprire la finestra per cambiare aria. Deve aver dato questa voglia anche a Judith Thurman, che ha tenebrosamente sottotitolato il suo testo I segreti della carne, un testo edito da Feltrinelli la prima volta nel 2001. Con questa biografia ella vuole restituire a Colette il diritto all'affascinante contraddittorietà che la caratterizza, quel suo oscillare fra arcaicità delle sensazioni e modernità dell'espressione, fra desideri borghesi e azioni spregiudicatamente sincere, sempre un filino sopra le righe e mai compiacenti. In effetti ci si libera di tanti pregiudizi, ma anche di tanti sentimentalismi, e ci si ritrova davanti una donna irritantemente libera e mai rassegnata, orgogliosamente consapevole dei propri desideri e disposta a pagare fino in fondo per viverli. Quel genere di donna, insomma, che non può trovare facilmente né comprensione né rispetto, neanche nella nostra epoca di donne liberate, quel tanto che occorre al marketing. Quasi 700 documentatissime pagine che fanno piazza pulita della Colette scandalosa da cartolina osé, ma anche della madre amorevole che non fu e della figlia adorante che fu solo in parte, e che restituiscono alla sua scrittura la dimensione sperimentale stregonescamente sapiente che ancora affascinano milioni di lettori in tutto il mondo. Quanti studiosi, quanto lavoro e quante Colette! Chi tiene in mano lo specchio? E per chi? Just hold on to me. ricordo che siete in ascolto della puntata di Tre civette sul Comò, dedicata questa sera alle biografie di donne. Gli appassionati di Margherita Yourcenar avranno visitato di recente la piccola mostra a lei dedicata alla Villa Adriana di Tivoli. Io l'ho fatto e devo dire che è stato un gran piacere trovare riunite insieme fotografie ed oggetti della scrittrice, cui già l'anno scorso la direzione del sito archeologico aveva dedicato di straforo una prima mostra, avendo incentrato l'importante esposizione di statue e immagini di Antino, l'amante dell'imperatore Adriano, essenzialmente sul testo delle memorie di Adriano, che rimangono una delle opere fondamentali della scrittrice. Certo, l'elemento lesbico di Yourcenar rimane un po' in ombra, cosa che corrisponde del resto ad una ben precisa scelta di lei. Circolano attualmente sulla Yourcenar tre biografie in lingua italiana, di cui la prima in ordine di traduzione è quella di Josiane Savignon, L'invenzione di una vita, Margherita Yourcenar, edita la prima volta da Einaudi nel 1991. Facciamo mente locale su un fatto. Con innegabile sadismo, Margherita ha disposto, molto prima di morire, che il nucleo più intimo delle sue carte, alcuni epistolari, diverse pagine autobiografiche, taccuini di appunti e agende private, venissero messe alla sua morte sotto sigillo per 50 anni, fino quindi all'anno 2037. Poco prima di morire, distrusse inoltre parecchie altre carte. Il resto, quello su cui si buttano disperatamente biografi ed esegeti cercando di trarne il possibile, è stato censurato dall'autrice, ritrascritto, purgato, spesso evidentemente manipolato, con intenti a volte imperscrutabili. Notiamo innanzitutto come l'ipertrofico ego di Margherita Yourcenar, evidenziato anche dai contemporanei, si rifletta meravigliosamente in questo. Ella era infatti tranquillamente certa che sarebbe stata oggetto e soggetto di biografie e studi non solo critici. Ancora, voglio ulteriormente sottolineare la sublime cattiveria di un'autrice che ha obbligato studiosi e biografi a una lenta morte per mancanza di ossigeno. Immaginate quanti di loro avranno fatto calcoli per capire se sarebbero arrivati alla fine del lungo inverno documentario predisposto dall'oggetto delle loro ricerche. Anch'io l'ho fatto. Non perché la studi in modo particolare, ma augurandomi di essere ancora abbastanza vivace da interessarmi alla questione. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now. Enjoy in the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle, watching hastiness unfold. On my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night. When I fell off your mind, I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. When you stay behind, I looked up and inside, down and outside, only to find a double taking, punching heart, a laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back. I'm for. Sometimes I couldn't help but leap the chip me back into them, even though I'm tired of trying. Your teasing ain't enough, fed up of buying your time when I don't get nothing back. I'm forward, I'm forward, I'm forward when I don't get nothing back. I am tired of trying. Your teasing ain't enough, fed up of buying your time when I don't get. Quale materiale dunque è in mano agli studiosi? Qualcosa di rigidamente predisposto, vagliato e sterilizzato preventivamente, che non permette nulla di più di quei brevi voli ipotetici di cui i suoi biografi sono stati per forza di cose costretti a diventare esperti. In particolare, pesa la totale censura yorksenariana sulla compagna di 40 anni di convivenza, Grace Frick, incontrata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e comprimaria di un autentico matrimonio dei sentimenti, dei sensi e degli interessi, scioltosi solo con la morte di Grace nel 1979. Del rapporto tra le due donne si sa molto, ma quel molto è anche contraddittorio, oltre a essere, naturalmente, maledettamente affascinante. Di fatto, Yorksenar ha nascosto in vita come in morte qualcuno da cui tutto sommato dipendeva non poco, materialmente, sentimentalmente, lavorativamente. Quanto troveremo nelle carte sottratte allo studio? Avrà accettato Margherita di lasciarci vedere le sue debolezze, i suoi sentimentalismi e le sue ingenuità di amante? Tutti noi le abbiamo, le avrà avute anche lei. Immaginiamo questi poveri biografi costretti ad allungare il collo fino al 2037. Alcuni di loro non ci arriveranno mai. Deve essere terribile lavorare in quelle condizioni e le loro opere ne recano la traccia. Savigno riesce a mantenere un certo equilibrio. Sia chiaro, mai potremmo leggere un'altra biografia in cui l'oggetto dell'opera sia così chiaramente amato, venerato e forse anche giustificato. Le pagine di Josiane Savigno grondano passione. Eppure, miracolosamente, quest'ottima opera riesce in un miracoloso equilibrio di coinvolgimento e distanza, di testardo irriducibile interrogare e di comprensivo, quieto accettare. Appassionata sì, ma anche molto rispettosa. Ritroviamo Michel Sard come autrice di Tu, Margherita Yorksenar, La passione e le sue maschere, delle edizioni Le Lettere, del 96. L'autrice ha dichiaratamente deciso di ignorare Proust, ricordate quel discorso, no, dell'evitare di fare biografia dell'autore attraverso i personaggi dei suoi romanzi. Ebbene, Sard ignora Proust e decide di provare a incastrare Margherita attraverso i suoi personaggi. Biografa, sui generis, analizza i personaggi delle opere yorksenariane come maschere della tragedia greca, svelandone prima gli archetipi, poi il nodo rovente dei sentimenti vissuti e negati. Il gioco è a volte azzardato, ma suona verosimile e segna peraltro un livello diverso nella scrittura di Sard, a mio parere, più mediata, meno visceralmente programmatica, ma proprio per questo più efficace e sicuramente godibile in sé. Un livello non ancora raggiunto, temo, da un'altra Michelle Goslar, col libro Yorksenar, sottotitolo Quanto sarebbe stato insipido essere felice, edito da Peyron nel 2003. Michel Goslar parte dall'assunto drammaticamente enunciato nel sottotitolo attraverso una citazione jursenariana da fuochi. Quindi quanto sarebbe stato insipido essere felice. Frase assunto in base al quale al fondo della vita di Marguerite vi sarebbe una pulsione al dolore e all'aspro controllo di sé, in una masochistica ricerca di rapporti di forza e di dominio. Il dramma pervade a fosche tinte fin le prime pagine della prefazione e dà subito il tono dell'intera opera. La convinzione, cioè da parte di Goslar, di essere esclusiva detentrice di una superiore chiave di lettura e interpretazione delle vicende jursenariane. Il suo lavoro ha l'indubbio merito di mettere a fuoco una parte della vita della Jursenar fin qui poco esplorata, vale a dire l'infanzia e l'adolescenza in Belgio e attraverso l'Europa. Ed è veramente ricco di inediti e di precisazioni. Michel Goslar, a mio parere, ha speso bene molti e molti anni di studio. Tuttavia quel tono un po' esaltato, quasi messianico, che percorre febbrilmente il testo, ne attutisce il piacere della lettura, laddove un tono più pacato sarebbe stato di gran lunga preferibile. Soprattutto per quel che riguarda la sostanza dell'amore di Marguerite per Grace, rapporto delicatissimo che la scrittrice avvolse sempre nel mistero e che davvero non può essere forzato nelle interpretazioni, non almeno fino a quando la completezza degli archivi lo permetterà forse e di farsene un'idea più precisa. Insomma, Goslar cerca, questo mi dispiace dirlo, ma cerca di infilarsi nella coppia Marguerite e Grace. Insomma, la presunzione guasta ed è un peccato, specie quando nasce in realtà da un impegno veramente grande. Peraltro, l'accento esaltato sembra essersi trasmesso dalla Goslar alla sua traduttrice italiana, Elisa Bozzelli, che in una trepidante e sentimentale appendice, dovreste leggerla, cioè è veramente trepidante, non c'è altro modo, intitolata Note del traduttore, ha spiegato come si sia impegnata a tradurre bene un'opera riguardante un autore, virgolette, che più di altri ebbe orrore dell'approssimazione della grossolanità in ogni opera intellettuale, chiuse le virgolette, e sentendo di essere riuscita nel, aperte le virgolette, più felice esercizio di esattezza di cui la mia vita mi abbia fatto dono finora, chiuse le virgolette. Benissimo, l'intento è lodevole. Ma per la miseria, perché allora licenziare una traduzione che gronda non solo errori tipografici, che potrebbe essere colpa più che altro dell'editore, ma soprattutto di francesismi e approssimazioni linguistiche impossibili a sostenere ed accettare? Non sarebbe stato meglio avere meno emotività e più accuratezza? These are a few of my cosa ci raccontano allora tutti questi testi? Dell'eccezionalità di due donne artiste e del potere perturbante del loro genio? Della difficoltà di avvicinarsi alle vite altrui anche quando, o tanto più quando, la fama sembra accendere potenti riflettori ad illuminarle? Confermano il gioco di potere fra eccezione e norma, fra trasgressione e ritorno all'ordine, dove il potere appartiene a chi muove per ultimo, dando interpretazione senza il tutto? Chi tiene in mano lo specchio e per chi? Siamo giunti alla fine del nostro incontro e vi ringrazio per aver diviso questo tempo con me. Abbiamo ascoltato brani di Kimbra, Marianne Faithfull, PJ Harvey, Adele, Kitty Lang. Nell'augurarvi buona serata vi ricordo che ci troveremo di nuovo qui il 7 gennaio alle 22 per la prima puntata del nuovo anno. Un saluto da Alessia. Raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apples, strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't